patria del caffè è sempre stata considerata l'Italia, sicuramente. Ma che si beva un ottimo caffè in Italia io ho qualche dubbio, sto parlando mediamente in tutta Italia. Devo dire che al nord dell'Italia, fino al centro-nord, si bevono mediocri caffè, mentre il sud rimane sempre la patria del miglior caffè. Ora non voglio fare riferimento a Napoli perché tutti dicono che a Napoli si beve il miglior caffè. Non sostengo questo, sostengo che mediamente al sud si beve un caffè decisamente migliore, almeno per il sottoscritto, perché io amo l'amaro e non l'acido, mentre il nord preferisce sempre l'acidità finale. Che lo sappiamo fare a casa? Forse sì, perché è una tradizione, probabilmente da anni nelle case si usano le moque oppure si sono usate le caffettiere alla napoletana. Beh, forse nelle case si beve un caffè migliore che nei bar italiani, però c'è differenza, c'è chi ama l'espresso e chi ama invece un altro tipo di caffè fatto con la moca, anche se con la moca ci sono dei segreti sicuramente che non tutti sanno, e questi segreti per fare un buon caffè con la moca sono innanzitutto di non tenere la polvere di caffè al caldo, ma possibilmente in frigorifero, perché così il caffè si mantiene sicuramente in modo migliore. Non bisogna mai riempire di acqua sopra la valvola, non bisogna mai mettere troppa polvere e soprattutto non bisogna schiacciarla, non bisogna pressarla, questo è un altro fatto, bisogna lasciarla morbida. Che sicuramente in questa maniera, con questi piccolissimi trucchi che poi sanno tutti, forse viene un migliore caffè. E poi attenzione, appena borbotta o ancora un secondo prima bisogna spegnere la fiamma, perché altrimenti il caffè diventa cotto.